Se tu al guerriero fossi, se il mio sogno s'avverasse. Un esercito di prori a mai guidato per la vittoria e il plauso di Menfi tutto. Yeah.